24. Minestra di bomboline di farina. Sono le bombe composte del numero 184 meno la mortadella. Per eseguirle guardate quindi quella ricetta, la cui quantità può bastare per 8 o 10 persone, tanto rigonfiano per uso di minestra, anche se le terrete piccole quanto una nocciuola. Per gettarle in padella, prendete su il composto col mestolo e con la punta di un coltello da tavola, intinto nell'unto a bollore, distaccatelo a pezzettini rotondeggianti. Friggetele nell'ardo vergine o nel burro, ponetele nella zuppiera, versateci sopra il brodo bollente e mandatele subito in tavola. Per avvantaggiarvi, se avete un pranzo, potete fare il composto il giorno innanzi e friggere le bomboline la mattina di poi, ma d'inverno non patiscono anche se stanno fritte per qualche giorno.